Rita, buongiorno. Buongiorno. Lei di quelle che vogliono riprendersi la faccia? Sì, senza dubbio. Però io voglio dire una cosa molto semplice. Io faccio qualsiasi azione se ho una finalità concreta. Mo, scusatemi, se io mi aumento le... Io ho 55 anni, no? Non mi dica che vecchia a 55 anni. No, io non me ne frega niente proprio. No, è mia coetanea. Non posso pensare che una mia coetanea sia vecchia. No, io non mi sento vecchia, né mi preoccupo più di tanto del mio fisico, eccetera, eccetera. Faccio un po' di ginnastica per restare agile e basta. Ma ammettiamo, io voglio fare un intervento chirurgico plastico. Ma deve avere una finalità concreta, perché certo. Non è che le donne che hanno le tette più grandi o il sedere, non so come, io sono straniera, sono tedesca, da noi il sedere non è mai tanto bello quanto quello del sud, però insomma... Perché no? Avete il culo piatto? Sì, in genere un po' le tedesche, hanno il culo sì. Più piatto, cioè tendenzialmente. Vabbè, pazienza, no? Uno compensa. Sì, appunto, ma uno compensa, eccoci, uno compensa, io dico questo... E lei come compensa il culo piatto? Ma io sono simpatica. Vabbè, già. Io sono simpatica, cerco di capire se ho un uomo, cerco di capire quello come va la storia. Però lei ha detto una cosa intelligente, signora, secondo me. Ha detto, queste cose si fanno con una finalità. È chiaro, si fanno esatto. Perché bisogna colpire, o bisogna soddisfare, o bisogna compiacere. Esatto, se una ragazzina ha il naso aquilino terribile, è logico che si fa una plastica fin quanto può, perché costa l'ira di Dio oltretutto. Vabbè, no? Questo è ammesso. La plastica e va bene il naso. La fa star ma bene. Ma se io a 55 anni, mo il mio culo piatto, me lo alzo, eccetera, eccetera, cosa mi garantisce? Che mi guardano il culo, ma non è che mi garantisce una qualità di vita migliore, o non è che mi garantisce che domani mattina trovo l'uomo dei miei sogni.